Smog 23, Smog 23, assieme a Team e Kid. Inizia a fissarmi, cazzo ti guardi, rapper infantile, alle prime armi. Continua e ti riduco in cenere, tanto non c'ho nulla da perdere. La realtà, credi di stare in alto, ma la verità, io in alto, tu in basso. Bruciano i tuoi sogni e le tue illusioni, ma riconosci i suoni migliori. La mia voce per te sarà un tormento, è il mio talento che spingo all'eccesso, che ti fa pensare, ti fa rassegnare. Contro di noi tu devi scappare. Vado al limite dell'incredibile, non più ostacolarmi, sono invincibile. Non posso fermarmi, sto al massimo. I BPM rappresentano il mio battito. Dammi un attimo e ti elimino dal gioco, perché il mio rap sputa fuoco. Se facciamo rap lasciamo senza parole, siamo il top, non c'è nessuna discussione. Sono arrivato al limite dell'incredibile. Dopo tutto rap, noi sfondiamo, tu tenti di ricopiarci in vano. Sono arrivato al limite dell'incredibile. Dopo tutto rap, noi sfondiamo, tu tenti di ricopiarci in vano. Dista distanze minime dal culmine, parole stupide spesso al limite delle favole. Io dico andale, mandale in giro per le strade. Il mio nome è sempre in testa, uomo come le bandane. Dimmi che rimane, solo come un cane. Visto che tu non hai skills, rapper batti ad ubriacare. Vi vedo sempre presi male, come fanno gli incapaci rap se non sanno fare altro che parlare male. Vi metto al muro, baciate il culo, cascate male, inciampate in territorio oscuro. Resto al mio posto, non mi smuovi man, trovo nuovi modi man. Dovresti fare il barman, Lupin, non riesci a farlo a casa mia. Sei sempre dietro coi carambe e polizia, potrei rassicurarti usando qualche bugia, ma io sono sincero, sfigato, via. Sono arrivato al limite, dell'incredibile. Dopo tutto rap, noi sfondiamo, tu tenti di ricopiarci in vano. Sono arrivato al limite dell'incredibile. Dopo tutto rap, noi sfondiamo, tu tenti di ricopiarci in vano. Sono arrivato al limite dell'incredibile. Dopo tutto rap, noi sfondiamo, tu tenti di ricopiarci in vano. Sono arrivato al limite dell'incredibile. Dopo tutto rap, noi sfondiamo, tu tenti di ricopiarci in vano.